Era una ragazza dalla bellezza prorompente, con un fisico da mozzare il fiato. Voleva fare la giornalista e aveva trovato l'ingresso della redazione grazie a una parentela importante. Il nonno della fanciulla era un big della finanza italiana, vecchio amico di Scalfari. Di fatto, la nipote risultava una raccomandata, sia pure del genere volonteroso. Disposta a imparare sin dall'inizio una professione che contava di fare con serietà, cominciando da qualche collaborazione alla Cronaca di Roma. Tutto normale, dunque, tranne un dettaglio. Il suo capo era un tipo al quale piacevano le ragazze e la biondissima lo intrigò subito. Il capo cominciò a corteggiare la ragazza in modo sempre più pressante. Il pasticcio prese forma della versione più tradizionale. Lui che premeva, lei che si negava. Fu inutile. Lui seguitò a tormentarla. A quel punto la biondissima si decise a registrare le sue telefonate bollenti e le portò al nonno perché si rendesse conto di quanto le stava accadendo. Molto seccato, il super nonno chiamò Scalfari e gli chiese di ascoltare le bobine delle intercettazioni e alla fine gli domandò che cosa intendeva fare in difesa della nipote. Scalfari traccheggiò, poi emise la sentenza. Il licenziamento gli appariva una misura estrema ed Eugenio, per carattere e abitudine, non voleva sbattere sulla strada nessuno. La misura più equa era invitare il pasticcione a continuare le ferie che stava già facendo. Al suo rientro sarebbe stato destinato a un altro incarico. La storia sembrò concludersi in quel modo, quando successe il finimondo che nessuno si aspettava. La mattina di venerdì 4 ottobre 1988, il segretario di redazione entrò nella stanza di Eugenio e lo interruppe mentre stava parlando con Rocca e me. Il segretario appariva molto agitato e disse al direttore: «Davanti all'ingresso del giornale ci sono le femministe del Buon Pastore. Stanno distribuendo un volantino sul caso di molestie accaduto in casa nostra». Il giorno successivo, sabato 5 ottobre, l'affare del volantino stava su molti giornali, insieme alla storia di molestie all'origine della faccenda. Repubblica fece scena muta, nel senso che si guardò bene dal parlarne. Ci fu chi protestò contro il linciaggio del giornalista attraverso il proclama delle femministe con la banda rossa, affisso in molte redazioni romane, ma si lessero anche giudizi severi sul silenzio delle redattrici di Repubblica. Il 14 ottobre 1988, sul Manifesto, in una delle sue noterelle spiacevoli, Rossana Rossanda scrisse: «Non apprezzo le donne che tacciono, esponendo al ricatto se stesse e le altre. Non apprezzo le giornaliste di Repubblica avvolte in un manto di silenzio da cui filtrano le chiacchiere. Prendiamoci la responsabilità di difenderci e di attaccare in prima persona, davanti al giudice o al giurì della stampa. Ma chi non ha il coraggio di mostrare la faccia, stia zitto e non rompa le scatole». Divampò ancora qualche fiammata polemica, poi tutto si spense. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giampaolo Pansa, La Repubblica di Barbapapà, storia irriverente di un potere invisibile. Rizzoli, 340 pagine, 19 euro. La piccola signora della grande casa è l'ultimo romanzo pubblicato in vita da Jack London nel 1916. È la storia di un triangolo amoroso tra Dick Forrest, proprietario di un ranch, sua moglie Paula e l'amico Evan Graham. L'attrazione per l'affascinante signora nasce quando Graham viene invitato alla grande casa, centro vitale del ranch dei Forrest. Quella sera Evan Graham indugiò a lungo prima di mettersi a letto. Era insolitamente scosso dalle emozioni causate dalla grande casa e dalla sua padrona. Appena si mise a sedere sulla sponda del letto, mezzo spogliato, a fumare la sua pipa, ecco riapparire nella memoria le ultime 12 ore. Come l'aveva vista, viva e reale, in tutti i suoi vari aspetti e atteggiamenti. Come gli aveva parlato di musica e aveva suonato per la sua gioia. Come aveva eccitato i saggi a discutere e lo aveva piantato per andarsene a preparare i tavoli da gioco per gli ospiti. Come si era sdraiata sulla grande poltrona, bambina fra le bambine. Come, senza timore, aveva cavalcato lo stallone nella piscina. E infine come, poche ore più tardi, era entrata nella sala da pranzo a salutare i suoi numerosi ospiti come una creatura da sogno, perfetta nel corpo e nell'acconciatura. Spense la luce e si trovò tra le fresche lenzuola, sveglio nelle tenebre. Di nuovo udì Paula Forrest ridere e di nuovo la immaginò come argento, acciaio e forza e ancora una volta vide nelle tenebre l'inimitabile movimento delle ginocchia sotto la gonna.